Radio 24 Reportage. Milano, la città dei single, di Roberta Pellegatta. Sapessi com'è strano sentirsi innamorate a Milano. Lo possono ben dire le centinaia di migliaia di single che a Milano abitano e che a Milano hanno appena regalato un primato nazionale, quello della capitale di chi vive da solo. Il sorpasso rispetto alle famiglie classiche negli ultimi mesi del 2009. Se i nuclei familiari tradizionalmente intesi sono adesso circa 339.000, quelli formati da un solo componente sono ormai più di 347.000. Ma perché i milanesi vivono sempre di più da soli? Sentiamo qualche parere. Per un motivo di lavoro, perché arrivano per lavoro. Secondo me sono diventate aggressive le donne. Penso per scelta, perché è più comodo, hai la possibilità di uscire tutte le sere e quindi cosa meglio che non essere single. Sicuramente per il lavoro, almeno nella fascia giovane, mezza età, è fondamentale. Perché qua si diverte un casino. Non perché sia a Milano sia più difficile, secondo me è che proprio la mentalità oramai è cambiata, diciamo, è più difficile in generale costruire una relazione vera. La sua idea. Vero è che Milano è la grande mela d'Italia. In moltissimi la raggiungono per le maggiori chance lavorative che offre, ma non tutti evidentemente la scelgono per mettere su famiglia. Una situazione fotografata da Tim, cinquantenne, inglese, single, da 3 anni a Milano dove insegna la sua lingua. Milano è oggi molto simile alle altre metropoli europee dove un gran numero di giovani single arriva da altre città per poter lavorare. La cosa che penso sia differente è che vedo pochi genitori con bambini, persino meno che a Londra. Questo perché penso che a Milano la gente si concentri molto sulla carriera. Entrambi i coniugi, moglie e marito, lavorano e i bambini diventano un optional. Il primo obiettivo è il lavoro. Come altre grandi città, Milano non è adatta ai bambini per il traffico, lo smog. Io stesso, se fossi un genitore, non lascerei che i miei bambini crescessero a Milano per l'inquinamento. Oltre al superlavoro e l'inquinamento, ad ingrossare le file dei single a Milano c'è la costante crescita dei divorzi e insieme delle convivenze non denunciate all'anagrafe. In un popolo che invecchia, poi, i milanesi non fanno eccezione ed è alto dunque anche il numero delle persone rimaste vedove. Poi ci sono gli stranieri. Dopo l'ingresso nell'Unione Europea del loro paese, migliaia di romeni che prima vivevano in clandestinità hanno potuto registrarsi in comune. Quale che sia il motivo, ora Milano si trova ad inseguire il modello di New York, che è stata dichiarata città ideale dei single. Nel frattempo, chi ci vive da solo non si lamenta. Paola, 42 anni, milanese doc, fidanzata da 10 con un architetto che vive in un'altra città, difende la sua condizione di single milanese. Beh, dal mio punto di vista è una scelta che funziona, che sta funzionando, non la cambierei. Perché? È grossa autonomia, indipendenza, pur comunque avendo una persona su cui fare affidamento, su cui contare, però la tua vita te la gestisci tu. Ma tu ti rendi conto di vivere in una città in cui sei in buona compagnia? Sì, ce ne sono tanti di persone come me, per fortuna. Milano è la città adatta? Sì, si presta bene, ti dà un sacco di opportunità se vuoi uscire, se vuoi fare cose, cinema, teatri, nessuno ti guarda se vai in giro da solo, se prendi un biglietto per un posto solo, ma si sta anche a casa bene da soli, è bella la casa da mono. Che tipo di casa hai? È una casa molto piccola, semplicissima, è molto facile da gestire soprattutto. È il bilocale la casa tipica dei single milanesi? Beh sì, uno prenderebbe magari anche un trilocale, però visto i prezzi un bilocale direi che ci stai benissimo. Ecco un punto dolente di essere single in una metropoli cara come Milano, procurarsi casa e sostenerne le spese. E ormai un appartamento piccolo è meno conveniente di uno più spazioso, come ci conferma Marco Randolino, responsabile di una delle agenzie immobiliari toscano, quella di zona Isola, quartiere giovane di Milano in rivalutazione. In proporzione al metro un bilocale costa più di un trilocale. Allora, si è notato questa crescita di single nella città, quindi i prezzi vanno sempre in base alla richiesta, quindi se la richiesta aumenta logicamente i prezzi sicuramente non scendono. Per i bilocali viaggiamo nei 200.000 e 250.000 euro, quindi... Quindi essere single è dura, perlomeno da un punto di vista economico. Nel frattempo con Paola siamo entrati in quello che a Milano è considerato il supermercato dei single, l'Esselunga di Viale Papiniano. Però guarda anche qui, biscotti, confezioni, quelle più economiche, cioè quelle a un prezzo più tranquillo sono 800 grammi, che per uno che vive da solo in effetti non li finisce più. Io li prendo spesso, ma poi vado avanti per mesi a mangiare questi. Quindi non ci sono ancora adeguati? No, direi no, quello assolutamente no. Anche se guardi i vassoietti dei cibi pronti, tipo quelli che spesso sono abbastanza monoporzioni, comunque hanno dei prezzi che non sono esattamente economici. Sai che io ho amiche e amici single che vorrebbero accoppiarsi, non fosse altro per dividere le spese? Sì, lo immagino, soltanto per spese condominiali e le bollette, quelle base, sono assolutamente d'accordo. Se poi ci si mette il mutuo e l'affitto, ci si va a nozze. A nozze, appunto. E le nozze servirebbero anche per le vacanze, perché partire da soli continua a costare di più. Luana è la responsabile dell'agenzia Blu Vacanze di Via Silva, zona Fiera. Purtroppo la maggior parte delle volte c'è un supplemento che varia da un 20, 30, a volte anche 50-80%, dipende dalle strutture. Infatti i miei clienti mi dicono: ma è possibile, con tutte le persone che viaggiano da sole ancora non ci sono agevolazioni? È vero, ancora non c'è la cultura, tra virgolette. E invece la crescita dei single la vedete o sì, no? Io la vedo, ma ho visto proprio anche l'approccio del cliente. Cioè, prima il single veniva titubante, aveva quasi paura a dire: io viaggio da solo. Adesso no, non c'è proprio questo problema assolutamente. No, più uomini, più donne? Tante donne, intorno ai 40, che hanno già anche figli. Non le dica a nadie. La nostra mamma quarantenne single si chiama Tatiana. La incontriamo in un locale milanese, la Maison Espagna, dove tra le altre cose si insegna il ballo latinoamericano. Divorziata da una vita, come dice lei, in vacanza è sempre andata con il figlio, ormai sedicenne. Io sono sempre stata in villaggio fino a quando mio figlio aveva lo sconto, ovviamente, quindi fino ai 12-13 anni. È penalizzato ovviamente il single, però anche se io per il momento sto bene single, però fa sempre piacere conoscere altra gente. Tu sei separata da tanto, hai detto, hai notato negli anni l'aumento delle persone libere? Sì, quello sì. Dal fatto che c'è veramente tanta gente fuori, proprio single, che va a ballare, come in questo caso, comunque molto più gente che ho visto proprio in compagnia, quindi in compagnie grosse, anche a mangiare fuori o cose di questo tipo, quindi vedi che non è la solita coppietta che quindi va in giro, c'è un assortimento maggiore, diciamo, proprio nelle compagnie. Secondo me si è tornato un po' a vecchi 15-16 anni, dove c'erano le compagnie grosse. Adesso ci sono i quarantenni che hanno le compagnie grosse. Mi corazoncito sta velluto per tuo amore. Compagnie che si creano anche attraverso internet. Il direttore del locale dove ci troviamo, Marco, 6 anni fa ha ideato insieme ad un amico una community per single che si chiama goparty.it. Ormai ha più di 75.000 iscritti. Come mai un successo del genere? Perché uno, lavorando tutto il giorno, non ha mai il tempo per alla fine avere altre amicizie, quindi una volta che uno esce dal lavoro non sa più, non si è organizzato il tempo libero, non sa con chi uscire, quindi questi siti servono. Qual è la tua sensazione? Che questi single siano single per forza o per scelta? Bah, penso per scelta, perché è più comodo. Davvero? Sì, secondo me sì, per scelta. A Milano si sta bene, se uno vuole fare tardi la notte ha tutte le possibilità di questo mondo per fare tardi, quindi. In questo momento, per esempio, è in atto una lezione di sudamericana. Di latinoamericano, sì, stile cubano il martedì e stile portoricano il lunedì, sempre alla Maison Espagna. Tra gli allievi del corso incontriamo Veronica. 30 anni, lavoro come educatrice presso un asilo nido da circa 10 anni e come hobby pratico latinoamericano da circa un anno e mezzo. Mi diverto molto, si fanno tante amicizie, tante conoscenze. E sei single? Sono single, sì, però vabbè, devo dire che comunque vivo bene, cioè nel senso non è che... anzi, cioè... Cioè per scelta o no? Diciamo che cioè, è difficile ora come ora trovare un compagno serio, tra virgolette, però vabbè, c'è da dire che non mi lamento, comunque mi diverto, cioè, faccio tutto quello che devo fare alla fine, nonostante sia single. Cioè. Secondo te perché a Milano i single sono diventati così tanti? Forse perché si vogliono, non so, si vogliono divertire, non lo so, perché forse si sta meglio da single. Cioè comunque si è più libera, diciamo, alla fine, non ci sono vincoli, di conseguenza uno preferisce magari scegliere di star single. Quanto entusiasmo per la vita senza legami, ma ci saranno lati negativi? Li ho chiesti a Paola una volta usciti dal supermercato. Lati negativi, vabbè, divisione sicuramente delle spese, ma quello è molto solo dal punto di vista economico. Ad esempio nella gestione della casa a volte può servire che qualcuno sia in casa per una riparazione, un qualcosa, e non c'è l'alternativa, lo faccio io, lo fai tu. se devi fare delle commissioni o qualsiasi cosa non riesci ad avere collaborazioni. Poi c'è la sera sbagliata che magari ti pesa essere da solo in casa, invece sei da solo e non riesci a raccontare o a parlare di quello che vorresti e che ti sta un po' lì. E alcune serate, magari in quelle serate dove sai che ci saranno tutte persone o accoppiate o comunque non conosci magari bene le persone, più comodo e più facile andare accompagnato, però ribadisco, ci sono sempre gli amici e le amiche. Ecco, quello che diventa importante quando uno vive da sola, che se non hai una rete di amicizie un po' solida, allora cambia un po' tutto. Insomma, single sì, ma non isolati. E sui ritmi di chi vive da solo, lo assicurano sociologi, architetti e psicologi dei consumi, ci si deve ormai misurare, e non solo a Milano. Secondo il demografo Giancarlo Blangiardo, infatti, la tendenza riguarda tutta Italia, dove i single sono destinati a rappresentare il 40% della popolazione. Niente rimpianti né rancore, adesso ci